Buonasera, buonasera e bentornati a questa nuova puntata di Mighty FM. Come potete sentire, qui in redazione siamo piuttosto raffreddati, non vogliatecene. Se appunto ogni tanto sentirete strombazzare e soffiarci il naso, ma niente, nonostante lo stato di salute non sia dei più brillanti, abbiamo deciso comunque di fare questa trasmissione. È una trasmissione, ogni tanto facciamo trasmissioni un po' più pop, un po' più rock, un po' più indie, e poi capita sempre la trasmissione dedicata all'elettronica. È vero, ne abbiamo già fatte dedicate però ai festival tipo Spring Attitude e Club to Club poco tempo fa. Invece adesso la dedichiamo ad un artista che, diciamo, è come un piccolo segreto, non è conosciutissimo, non è un nome che quando tu lo dici tutti dicono ah sì, lo conosco. No, non lo conosco, no, ma quando viene conosciuto viene molto molto apprezzato, e quindi un po' sottotono, sottotraccia, modesto, dimesso, a partire da un nome d'arte, DJ Richard, che potrebbe essere appunto uno che so che fa il DJ ai matrimoni. Invece lui è un DJ producer di origini statunitensi, del Rhode Island in particolare. È uscito a metà giugno il suo secondo lavoro, il suo secondo album, si chiama Desire Xerox, uscito per la Dial, etichetta di Amburgo, e come sempre questo è il pezzo di apertura omonimo, Desire Xerox. DJ Richard. Definito in modo descritto, in modo ficcante, ambient, virgola, techno, perché sono queste le due cifre che si alternano più o meno, un pezzo ambient, un pezzo più movimentato, in questo disco, che è stato ispirato da un'attrazione un po' strano, un po' cupa. Diciamo che le produzioni di DJ Richard, che abbiamo scoperto grazie alla nostra agente segreta Marty chiamarsi in realtà Alexander, ha sempre avuto questo tono un po' cupo, un po' minaccioso, ominous, come dicono in tante recensioni americane. E questo album, se possibile, aumenta ancora di più questo tipo di sensazioni, e questo grazie appunto a un'attrazione che ha subito DJ Richard in un periodo un po' confuso di transizione, un interesse per l'arte medievale europea. È bello che sia specificato, no? Arte medievale, il misticismo e anche le raffigurazioni e le filosofie relative all'anticristo e alla fine dei tempi, ovvero al millenarismo. E sono diversi musicisti che nella scena, diciamo, elettronica più, insomma, sperimentale, questo termine è sempre abbastanza riduttivo per tanti musicisti, ci sono tanti appunto artisti e producer che stanno incorporando elementi e strumenti e suoni di un passato, appunto anche o di un immaginario anche appunto relativo a Medioevo, Rinascimento, e in particolare Wessel, Sebastian Gainsbourg, che abbiamo potuto vedere dal vivo in un set veramente strano, interessante, ad un orario un po' proibitivo, ma è stato molto molto bello. L'avevamo ascoltato appunto per a Club to Club, l'avevamo appunto ascoltato un suo pezzo che era un'anticipazione, Argo for Maggie, del suo disco che sarebbe uscito il 9 novembre, e quindi è uscito Queen of Golden Dogs, e ci ascoltiamo un altro pezzo, Glory Glory, tra parentesi, for Tippi, perché ogni pezzo è dedicato ad una donna. E sia appunto nella copertina, sia nei visual, sia nella costruzione dei pezzi, la presenza di archi, la presenza di... mi fa pensare a quel Medioevo, un po' surreale, pazzesco, eccessivo, esagerato, come quello appunto descritto nei film di Brancaleone, per esempio. Vengono in mente, anche pensando al Medioevo, i libri come Canterbury Tales di Geoffrey Chaucer, soprattutto i racconti di questi dei clerici vagantes, che poi appunto erano gli antenati dei goliardi, che in epoca di peste poi si riunivano tutti insieme, oppure si facevano ospitare e seducevano delle giovinette, insomma, una come il Decamerone, insomma, un Medioevo molto molto vivace. E siamo passati ad una late addition alla nostra scaletta, perché non ci avevamo pensato prima, e dopo, leggendo recensioni, riferimenti, eccetera eccetera, avevo pensato ma certo non avevamo ancora ascoltato l'ultimo album, l'abbiamo fatto oggi, è forse il più bello che io abbia sentito di lui. Parliamo di Daniel Lopatin, ovvero One Trick Point Never. Il suo ultimo album si chiama Age Off, questo è il pezzo di apertura che si chiama Age Off. Un disco che vede anche la partecipazione di Prurient e Anony nello stesso pezzo, che vede la presenza di James Blake non come autore di pezzi o come voce ospite, ma proprio come veste tecnica di mixer e... sì, penso aiuto tecnico, diciamo, ma anche la presenza di Kelsey Lu come strumentista. E quindi questa trasmissione è anche un po' un'occasione solo appunto per ascoltare tutta la produzione finora e l'ultimo bel disco di DJ Richard, di Esire Xerox, un po' di fare una panoramica sulla scena elettronica tra clubbing e sperimentazione. per questo, partendo all'idea di fare una trasmissione su DJ Richard, che diciamo è stata un'idea che si è concretizzata proprio nei giorni scorsi, insomma in modo molto rapido, forse visto il mio stato di salute me la sarei potuto risparmiare, ma non è da me. E l'occasione è che questa sera, se qualcuno ci sta ascoltando, magari non lo sa, DJ Richard sarà ospite di Ombre Lunghe, che questa sera presenta la sua anticipazione, la sua preview per il festival che invece si terrà dal 13 al 15 dicembre. Un festival multidisciplinare, visual, installazioni, danza, musica. E quindi stasera all'Atelier C DJ Richard farà un doppio set, visto che sono due le sue anime, ambient e più techno. Ne farà uno in apertura, poi in mezzo ci sarà un altro ospite della serata, un visual artist. Non vorrei sbagliare, Bod. Sì, Bod. Ma noi siamo qui per parlare di DJ Richard, ovvero Alexander. Ed è ora di dire le poche cose che sappiamo di lui. Come dicevo, di origine statunitense, ovvero del piccolissimo stato del Rhode Island, il più piccolo stato degli Stati Uniti. Anzi, ho scoperto che la dicitura ufficiale, il nome ufficiale dello stato è Stato del Rhode Island e delle piantagioni di Providence, che infatti è la città principale e è la città in cui è nato Alexander. Poi ha frequentato la Rhode Island School of Design e, come succede spesso, come succede per esempio alla famosissima St. Martin School of Design School, Fashion School, insomma, di Londra, tantissimi giovani studenti che appunto si dedicano al design, alla grafica, alla moda, eccetera eccetera, poi finiscono per fare i musicisti o i cantanti. Ed è per questo che più di uno studente della Rhode Island School of Design, ovvero Richard Alexander e un suo socio, anche di lui non sappiamo il nome, si chiama giovane maschio, young male, nel 2012 fondano, spostano a New York, forse escono dal loro piccolo stato e fondano un'etichetta, la White Material, definita da Discogs un'etichetta specializzata in Outsider House. La prima release dell'etichetta è un EP di Young Male dal titolo All R, che avevamo messo in scaletta, avevamo scelto il pezzo, l'avevamo editato e alla fine l'abbiamo cassato. E la seconda invece release è un EP di DJ Richard, ovvero Leech 2, in cui stiamo ascoltando il mix delle quattro tracce ivi contenute, ovvero Leech 2, Stoneworks, MDWB e Shade of 77. Quattro tracce molto diverse tra loro, è come se avesse fatto uno showcase a se stesso e insomma ai potenziali possibili ascoltatori di quello che sa fare, di quello che era capace di fare, di quello che gli piaceva fare. Mentre adesso diciamo che ha trovato un po' più la strada. Che gli si confà, perché comunque Desire Xerox, come come abbiamo scritto, espande un po' i suoni, le sensazioni, il mood del suo album precedente, il 2015, Grind, con cui l'abbiamo conosciuto. Finisce questo mix dei quattro pezzi contenuti nel primo LP, sì, EP a firma di Joy Richard, ma noi siamo qui riuniti stasera per parlare del suo secondo album, uscito il 15 giugno, e adesso ascoltiamo il secondo pezzo. Come dicevo, un pezzo ambient e un pezzo techno, sì, che poi si può declinare in tantissimi modi. Magari basta solo la presenza di una ritmica, di un beat. Tra l'altro, anche una caratteristica che ho visto è che le tracce ambient hanno una... un'onda con volumi molto molto più bassi, in contrasto invece le tracce, diciamo, più ritmate hanno invece un volume più alto, una wavelength più ampia. E questo secondo pezzo si chiama Pitfall, ovvero trappola. Come dicevamo, c'è sempre questo senso di minaccia, di pericolo, di turbamento. E appunto anche a conferma delle ispirazioni, abbiamo detto l'arte medievale, il millenarismo, l'anticristo. C'è la copertina dell'album, terrificante. Un mostro, un diavolo, un demonio. E come abbiamo scritto, non è neanche appunto tanto strano, perché se comunque cresci in un posto come Providence, New England, terra di pellegrini, puritani, caccia alle streghe, leggende e misteri, nebbia, bruma, oceano, ce l'hai un po' nel sangue. E come abbiamo scritto, Providence è anche la città di Howard Philip Lovecraft, creatore di racconti terrorizzanti, un antesignano della fantascienza, che ha creato appunto dei mondi il cui terrore è talmente grande che è indescrivibile, impossibile da raccontare, un terrore che ti rende folle. H.P. Lovecraft, che io ho imparato ad amare grazie alla mia amica Simona, quando parlava sempre del mito di Cthulhu, e la Miskatonic University. E poi ho comprato di tipo i 5 volumi dei suoi racconti. Letti, torna ai 20 anni, ma riletti anche nel tempo. È una cosa molto interessante in tutto questo alone di mistero che circonda la persona di DJ Richard, e poi adesso sappiamo che si chiama Alexander, e poi appunto, come ho scritto nella scheda, anche un po' come liberato, ma insomma chi se ne frega come si chiama di nome. Se voi vedete la sua foto, anche di foto sue ce ne sono poche, sempre con il cappuccio o berretto, sempre un po' nascosto. DJ Richard / Alexander ha una somiglianza veramente inquietante con il suddetto Lovecraft. Sarà forse il suo erede? Ad enfatizzare questa domanda così sospesa è arrivato puntuale un pezzo di Marie Davidson. I feel empty in the summer breeze, in the mountain facing me I see wind turbines. Children play in the field next to my dad's house. Their voices reach to me in echoes, floating in the light of the fading afternoon. Marie Davidson, cantante, poetessa e producer di musica elettronica di Montreal. È arrivata quest'anno al quarto album, Working Class Woman. Noi l'abbiamo conosciuta con l'album precedente, Adieu au Dance Floor. Love takes courage. E nonostante insomma sia più conosciuta per dei pezzi più violenti, come lo stesso anche Work It dell'ultimo album, che piace tanto a Marty, che quando l'ha messo Peach alla serata di Habitat è stata molto felice. Abbiamo scelto invece un pezzo molto calmo, ma che ha anche questo appunto un'aura un po' di pericolo, e che si chiama La Chambre Intérieure. Finisce La Chambre Intérieure di Marie Davidson e passiamo al terzo pezzo dell'album di Azirex Aerox, si chiama Vanguard. E qui il beat c'è e il senso di pericolo costante. Questa sera una puntata di Meta FM soprattutto d'ascolto, sia perché i pezzi di DJ Richard sono da ascoltare, voglio dire, non sono canzoni, verso ritornello, bridge, ritornello, sono delle composizioni che hanno tantissimi particolari e richiedono un ascolto meditativo quasi. E quindi parlerò molto poco molte volte un pezzo, una composizione, per dispiegarsi ha anche bisogno di tanti minuti. E in diversi casi noi abbiamo un po' fatto degli edit, un po' dei tagli e cuci, non solo accorciando il pezzo, ma proprio togliendo dei pezzi in mezzo, attaccandoci la fine, insomma. E l'abbiamo dovuto fare anche con questo pezzo, Vanguard, l'abbiamo un po' accorciato di quel paio di minuti. Questo è un pezzo che comunque si balla benissimo. Ed ecco che arriva crudelmente la sfumatura di questa Vanguard. Una puntata di ascolto soprattutto, e che ci ha fatto venire in mente appunto un'idea abbastanza exciting, che in italiano suona male, di ascoltare e far ascoltare tutta la produzione elettronica sperimentale più o meno danzereccia di quest'anno, di questi ultimi mesi, una produzione molto ricca, di altissima qualità. Abbiamo già ascoltato Vessel, One of Tricks Point Never, adesso è Mary Davidson, adesso siamo arrivati a Rival Consoles. E tutti i dischi che hanno avuto altissimi voti alla critica specializzata, ben sopra l'8, alcuni quasi anche a sfiorare il 9. e per diversi mesi su Metacritic l'album con i voti più alti è stato Persona di Rival Consoles, da cui stiamo ascoltando una bellissima Sun's Abandon. Producer britannico dell'Ester, Ryan Lee West, che incide da sempre per la Erase Tapes, ovvero l'etichetta di Nils Fram, di Olafur Arnalds, quindi di Chiasmos, quindi di Douglas Dare, che suonerà al Comunale il venerdì 7 dicembre. E che è una vecchia conoscenza, in uno appunto dei momenti di così innamoramento di nomi nuovi o comunque più o meno sconosciuti ai più. Quasi esattamente 3 anni fa Mighty FM dedicò una puntata a Rival Consoles e all'album precedente a questo, ovvero Howl del 2015. Stesso anno del primo album di DJ Richard, Grind, e non me lo ricordavo, ma l'ho visto oggi che in scaletta 3 anni fa c'era anche un pezzo di DJ Richard, ovvero Bane, che ascolteremo parzialmente più tardi, uno dei miei pezzi preferiti dall'album di debutto. Questa Sun's Abandon, anche il pezzo successivo nella tracklist dell'album, Dreamer's Wake, è molto bello. Ma continuiamo a percorrere e ad ascoltare la precedente produzione discografica di DJ Richard. Dopo la prima uscita per la propria etichetta nel 2012, nel 2014 esce un altro EP, sempre di 4 pezzi, si chiama Nailed to the Floor. E anche in questo caso, come il caso precedente, sono diversi, insomma, i generi, tenore dei pezzi. E anche in questo caso, come prima, abbiamo mischiati insieme. Questo che stiamo ascoltando è la title track Nailed to the Floor, che sarà seguito da Richard Platz, tra parentesi, NJ Storm Drain Mix, dove NJ immagino che sia New Jersey. Potrebbe anche essere Richard Platz, perché quello è l'anno in cui anche DJ Richard sente le sirene che lo chiamano da Berlino e ci si trasferisce. Poi seguito da Benzos e l'ultima traccia che si chiama Freydis. Ripetiamo, questa sera DJ Richard è a Bologna e è veramente grazie a queste realtà come Habitat, come appunto Ombre Lunghe, che arrivano a Bologna queste, appunto, queste chicche, questi artisti ancora poco conosciuti da noi. E quindi dalle 23:30 in poi un primo ambient mix. Poi ci sarà Bod e poi di nuovo DJ Richard invece per un set un po' più sostenuto. Stiamo ascoltando il mix delle quattro tracce contenute nel secondo EP del 2014 nel To The Floor, sempre pubblicato per la propria etichetta White Material, tuttora in attività. Ho visto su Discogs ci sono releases fino al 2017. E una pubblicazione invece del 2016 è appunto un album, How to Disappear in America, sempre del sodale, ovvero cohort di DJ Richard, con cui ha fondato appunto l'etichetta, e ci è dispiaciuto molto doverlo togliere dalla scaletta, ma abbiamo privilegiato altre cose. Fare questa panoramica dell'elettronica, più o meno, abbiamo detto, da club o più o meno da ascolto, più o meno sperimentale. Beh, certo, questo pezzo di è sicuramente più da dance floor che altro. Ecco che fa capolino, insomma, anche se con questa base, molto questi synth, molto appunto da minimal chill out, quasi balearica, fa capolino sempre quella che poi appunto è diventata la cifra del suono di DJ Richard, ovvero questa cupezza. E quindi le sirene di Berlino lo invitano a stabilirsi nella città dove finiscono, insomma, per più o meno un periodo della loro vita, DJ producer di tutto il mondo, che poi fanno ritorno a casa per diversi motivi. È successo anche a Fitzgerald, che nomineremo anche un po' più in là per un altro motivo, e è successo appunto a Alexander, che va a vivere a Berlino, e dello stesso 2014 è una cassetta che si chiama Terror and Erebus, ovvero il titolo di due tracce, ognuna di 20 minuti, pubblicato su un'etichetta tedesca, la Casual Plastic, ed entra in contatto comunque con la Dial di Amburgo, che da quel momento diventa la sua etichetta, che ha pubblicato quindi il primo album di debutto 2015, un EP intermedio del 2017 che ascolteremo dopo, e questo di Esirex Aerox. Siamo arrivati ad ascoltare uno appunto dei pezzi più atmosferici, Crimson Curve. Dicevamo, un album ispirato dalla musica medievale e dalle idee, le visioni della mortalità, dell'apocalisse, della morte, che hanno dato vita a dei pezzi appunto oscuri, un po' a volte un po' più hip hop, a volte più ambient, a volte più IBM e house, ma sempre attraversate da delle melodie romantiche, in qualche modo delicate. E finisce Crimson Curve. Abbiamo nominato la Dial di Amburgo, un'etichetta distribuita dalla Compact di Colonia, gloriosa Compact. Etichetta fondata nel 99 da Peter Kersten, ovvero Lorenz Puccettone, che ci piaceva tanto negli anni a cavallo post inditronica, anche gli anni di Barbara Morgenstern, gli anni in cui l'abbiamo anche visto suonare dal vivo al Mattatoio di Carpi con la sua valigetta, e l'abbiamo visto anche, credo, a Palazzo Renzo per Robot, e abbiamo suonato tante volte i suoi pezzi, ma non sapevamo che fosse fondatore della propria etichetta, insieme a David Liske, ovvero alias Carten Jost, e a Paul Kominek, alias Turner. Etichetta, genere definito post minimalist dance music, che appunto ho letto che praticamente corrisponde a Deep House, semplicemente. l'etichetta che ha pubblicato anche lavori quasi tutti di Efdemin, di John Roberts e di Panta du Prince, dal debutto nel 2002 fino a This Bliss nel 2010, quando poi insomma è passato alla Rough Trade. E Roman Flügel, metà dei alter ego, creatori delle pezzoni più belli da ballare, più esaltanti, ovvero Rocker, Olivia e Wow Wow Wiu. E poi ha continuato la sua carriera solista, l'abbiamo visto sicuramente una volta a Porto. Tutte le cose che fa mi piacciono, tant'è vero che appunto l'avevo messo in scaletta, anche annunciato nell'elenco degli artisti in scaletta, e invece anche lui è stato sacrificato. Sarebbe entrato in scaletta come uno dei nomi che mi piacciono di più, o dei nomi insomma più importanti dell'etichetta Dial. Invece abbiamo mantenuto solo giustamente Lorenz in quanto fondatore, e quindi insomma ha dato un lavoro a DJ Richard. Ma abbiamo eliminato Roman Flügel, sebbene avessimo già scelto due pezzi. Questo che stiamo ascoltando, ovviamente, cioè, non l'ho detto, ma è appunto Lorenz, che quest'anno anche lui ha fatto un disco nuovo, si chiama Illusion, e questo pezzo si chiama Transitions. E invece l'album di Roman Flügel, prolificissimo fin dalla fine degli anni 90, se mi scorresse la pagina, perché non vorrei sbagliare. Abbiamo fatta, allora, All the Right Noises, mi ricordavo che era un titolo molto figo, tutti i rumori giusti, e niente, raccomandazione The Mighty Suns e Nameless Lake. Quindi insomma, in spirito abbiamo evocato Roman Flügel, ma siamo qui per parlare del suo compagno, se meno famoso insomma di etichetta, ma molto molto bravo, ovvero DJ Richard, del suo ultimo album Desire Xerox. Desire, Desilla, Solvet Seclum, Infavilla, Teste David, Cum Sibilla. E stiamo ascoltando questo pezzo che, minaccioso come sempre, l'abbiamo detto mille volte, ma ancora di più anche nel titolo, visto che si chiama Tunnel Stalker. Cioè, quindi qualcuno che ti pedina, che ti insegue in un tunnel che si immagina molto lungo e molto buio. Quindi dai, facciamoci crescere un po' l'ansia. We'll be right back. infatti, come dice anche la recensione di Pitchfork, che ha dato un voto più basso a questo Desire Xerox rispetto a Grind, del 2015, che aveva preso un 8.1, questo invece 7.8. Appunto, fa riferimento a questa presenza terrificante, un rumore di fondo indistinto che si fa strada quasi strisciando. E finisce Tunnel Stalker. Dopo averlo nominato tante volte, siamo arrivati al Grind Mix. Ovvero l'album di debutto 2015, che infatti si apre con questa bellissima traccia, appunto sempre dark ambient, apocalittica, abbiamo scelto 4 pezzi, questo primo si chiama No Balance, pezzo con degli intarsi noise. E probabilmente noi l'abbiamo conosciuto andando, insomma, a leggere le varie recensioni di Pitchfork. Non ricordo che qualcuno me ne abbia parlato, forse mi aveva anche attirato la copertina, molto new wave anni 80. Ma ecco che No Balance dà luogo a uno dei pezzi più ritmati dell'album, ovvero Screes of Grey Craig. Perché comunque sono pochi episodi così ritmati, è un disco più ambient che altro. Oppure ci sono anche dei pezzi che sono metà ambient e che poi invece poi diventano più danzerecci, come Aymir. E il recensore di Pitchfork ai tempi diceva che è uno dei migliori album dell'anno di house e techno, in parti uguali americano ed europeo, analogico nella sensazione, malinconico nell'umore, un po' spigoloso, ma comunque incredibilmente elegante. Nella stessa recensione si fa riferimento appunto a Lorenz e Roman Flügel, ma anche al resident sentimentalista della Compact, ovvero Super Pitcher, che ci piace molto. E passiamo a invece i due pezzi preferiti di questo disco. Questa è la Bane, che significa, insomma, tormento, Bane of my existence, quella Bane che avevamo messo nella puntata 3 anni fa dedicata a Rival Consoles, e questo è il pezzo successivo, Bane e Vampire Dub, sono i miei preferiti e anche i pezzi preferiti di Tabash, che me li aveva segnalati in uno scambio di commenti su Facebook. Io ho detto no, tranquillo, le conosco bene. E di questo disco un altro sito, Inverted Audio, The Grind, dice, esordisce dicendo: alcune persone, insomma, in the game, in questa scena, insomma, nell'ambito musicale, cercano sempre tanta attenzione e il loro ego e la loro presenza nei social media a volte è molto molto più grande e pesante della qualità della loro produzione musicale, ma grazie al cielo ci sono artisti come DJ Richard che invece preferiscono tenere un basso profilo. Pochissime foto, dicevo, questo anonimato, questo nome così qualunque, chissà se c'è un aneddoto dietro questa scelta di questo DJ Richard, poteva anche chiamarsi DJ Alexander. E siamo passati alla molto bellissima Vampire Dub. Ci sono questi blips, c'è sotto il hi-hat che dà insomma un po' di allegria e ritmo, e poi arriva questa melodia di synth un po' da badalamenti Lynch. Chissà se magari avremo modo di scambiarci due chiacchiere, la nostra agente a Lavana Marti, che driver di fiducia della serata, ha detto a Alexander che c'era una matta che faceva una trasmissione radio su di lui e lui ha risposto what? Quindi minimo minimo sta matta si deve presentare. Quindi per chi non conoscesse, io direi appunto di partire da Grind, questo bellissimo album. E dopo i quattro pezzi scelti da Grind, siamo tornati a Desirex Aerox e Dissolving World. Dissipazione, il dissolvimento, del mondo per in questo album. Che ovviamente non parla, anche perché non ci sono testi, non ci sono parole, non parla di morte, violenza, apocalisse, ma la evoca di tipo anche questo pezzo è desolato, alla fine è dolce, tenero, straziante, ma appunto è come la contemplazione della fine del mondo, però appunto non in un modo improvviso e traumatico. Quasi uno svanire lentamente. Resident Advisor dice: questo album di Desire Xerox è vario, ma coeso completamente, unificato da questa aria luttuosa e il contrasto costante tra luce e buio, la luce e il buio. E quindi un disco grim, Grim Reaper. Cupo, mesto, ma anche bello. Ecco, non mi veniva tristo mietitore, la morte. Quindi un'immagine, appunto, la morte, lo scheletro con la falce, o lo scheletro con il mantello, il cappuccio, la falce, un'immagine molto molto frequente nel Medioevo, mi fa pensare al Settimo Sigillo di Bergman. Il cavaliere gioca a scacchi con la morte. Mentre la recensione di Pitchfork, che faceva riferimento appunto a questa presenza dice anche che l'accostamento tra appunto il Desire, il giorno del giudizio, il giorno dell'ira, con Xerox quasi suggerisce che le calamità ripetono se stesse in una forma progressivamente degradata, come Marx, che parlava delle porte girevoli della storia come il ciclo infinito di alternanza tra tragedia e farsa. E quindi come le fotocopie, tragedie fotocopiate, sempre più degradate. E poi anche il recensore dice: la fotocopiatrice, questo riferimento evoca le fanzine punk, e che ci sta. Which feels fitting, dice. Ma non è l'album che suona punk, perché è troppo elegante per questo. E nel desiderio di ascoltare, insomma, anche una buona scusa per ascoltare una buona volta tanti dischi che sono usciti, che ci siamo procurati ma che non abbiamo ancora ascoltato con attenzione, questa è stata una buona scusa per ascoltare per esempio Qualm di Helena Hauff. Una nostra beniamina. All'inizio di agosto è uscito il suo secondo album vero e proprio, ovvero appunto Qualm. E sebbene appunto lei sia famosa per dei pezzi appunto abbastanza ignoranti, come lei quando suona, per quella sigaretta in bocca, sembra proprio una camionara, si Forse appunto il suo suono più conosciuto sia quello che lei definisce grainy and rough and a bit fucked up. Quindi grezzo, granuloso, un po' scazzato. Abbiamo scelto questa doppietta di pezzi, ovvero la title track Qualm, seguita da No Qualms. Pensato di mettere altri due pezzi in realtà da questo disco, quello che infatti conferma a ragione è stata etichettata come best new track da Pitchfork, ovvero Hyper Intelligent Genetically Enriched Cyborg. Abbiamo scelto invece questi altri due pezzi, anche un altro pezzo che avevamo ascoltato, era un pezzo ugualmente molto, forse molto più calmo, essenziale, semplice e direi quasi romantico anche nel titolo. Che era Entropy Created You and Me. E invece abbiamo scelto Qualm e No Qualms, che vanno di seguito nel disco. Praticamente No Qualms è la stessa melodia a cui viene appunto aggiunto il beat, le percussioni e vari effetti. Leggermente più veloce. Una parola strana, non si sente molto spesso. World Reference ci dice che qualm significa o scrupolo, preoccupazione, ansia, pensiero. Quindi pensiero? No, non qualms, stai senza pensieri. Ma significa anche come termine arcaico nausea. Tipo, veniva nominato questo termine quando si parlava della nausea dei passeggeri delle navi, dei piroscafi. Mentre la recensione di questa doppietta è stata fatta appunto una recensione ad hoc su Pitchfork di questo Qualm No Qualms, dice che invece la dualità è nelle due lingue, nell'inglese e nel tedesco, che è la lingua madre della hamburghese Helena, che in inglese appunto. Quindi loro adottano, il recensore adotta il significato di sentimento di disagio, fastidio, nausea, mentre in tedesco una parola che significa fumo o fumi, tipo esalazioni. Dice praticamente questi due significati si adattano entrambi alle tracce. Quindi insomma, per guardarci intorno nella produzione di elettronica, nomi che sono delle conferme, abbiamo appunto deciso di fare questa carrellata, scegliendo ovviamente i nomi che più ci piacciono, ci hanno incuriosito. Mentre di Xerox Xerox, facciamo scioglilingua, primo pezzo che è stato diffuso a maggio, quindi l'album è uscito a metà giugno, è questo, che è uno un po' dei pezzi più mossi, si chiama In Broad Daylight, quindi appunto il contrasto tra luce e buio, tanto buio, e invece questo pezzo si chiama in piena luce del giorno. fare delle colonne sonore di film un po'... non tanto horror, niente di splatter, appunto quelli di suspense psicologiche, quelle che veramente ti terrorizzano. Quindi all'inizio però un pezzo un po' da ballicchiare e poi... e poi fortunatamente ti ripigli. E ti muovi e come, anche per farti passare un po' la strizza. Balli, non ci pensi. Mai stare tranquilli anche quando pensi che stai ballando un pezzo così senza nessuna connotazione. Sinistra e invece tac. Ma tornando alla recensione di Pitchfork, che faceva tutte queste associazioni interessanti tra le calamità, le tragedie che si ripetono nella storia in fotocopia, riferimento alle fanzine punk. Non è un disco punk musicalmente perché è troppo elegante, ma il suo spirito evoca una lettera fatta cut and paste, no? Con le lettere, tipo il collage, tipo lettere minatorie, lettere anonime fotocopiate negli anni 90, che appunto mettono in contrasto idee e fonti diverse in bianco e nero. E ci è sembrato fitting, sempre per, innanzitutto per ascoltare un disco nuovissimo, ovvero Passion, che non era ancora uscito quando abbiamo fatto la trasmissione su Spring Attitude, perché l'abbiamo suonati e poi visti a Spring Attitude, ovvero Them Dyke Stare. Non era ancora uscito questo disco, quanto mai adatto, quanto proprio la scheda di Wikipedia ci dice che questo duo formato da DJ Sean Canty e da invece il producer Miles Whittaker è un duo di dark ambient. Originari di Manchester, hanno dato seguito a loro produzione, è arrivato adesso al quarto album dopo Wonderland 2016, è arrivato questo Passion e ascoltiamo due pezzi di due pezzi, ovvero questa prima si chiama Spitting Brass, a rappresentanza delle due anime della loro produzione, che rispecchia anche le due anime della produzione del disco di DJ Richard di cui stiamo parlando stasera. È una cosa anche che può accomunare questi artisti e anche la scelta stessa dello pseudonimo, cioè del nome del duo, ovvero Damn Dyke Stare, ovvero lo sguardo fisso, lo sguardo intenso, lo stare di Damn Dyke. Chi era Damn Dyke? Era praticamente la leader delle streghe di Pendle, le Pendle Witches, accusata di 3 omicidi, morì in prigione nel 1622 prima di essere sottoposta a processo. Quindi Providence, Rhode Island, New England, Salem e la strega Damn Dyke. E siamo passati al secondo pezzo, che è il pezzo di chiusura dell'album Passion Damn Dyke Stare, si chiama giustamente Dilation. Quindi Damn Dyke Stare, che attinge dal folklore locale, essendo queste presunte streghe, questa località del Lancashire, anche questa melodia così insomma delicata, che poi comincia a degradarsi, a distorcersi. Come quando si rovinava il nastro sulle cassette. Quindi magari più di altri acts che abbiamo scelto suonare stasera, c'è appunto più diciamo sintonia tra Damn Dyke Stare e DJ Richard, a cui torniamo a Desire Xerox con Ancestral Helm. Che non abbiamo detto è che dopo qualche anno a Berlino DJ Richard è tornato a casa, è tornato nell'Ocean State, e quindi forse questo è stato il periodo di confusione, di transizione. La stessa confusione e transizione, qui mi aggancio, che ha permeato anche la genesi di All That Must Be di George Fitzgerald, anche lui dopo 10 anni a Berlino, la paternità lo richiama a Londra e l'abbiamo nominato due volte e lo nominiamo ancora perché is coming into town per Robot Night venerdì 7 dicembre al Link, e io lo scarrozzerò, lui e quel pazzoide di Nathan Fake, una doppietta di gran classe. È l'ultimo appuntamento dell'anno firmato Robot Festival. Sai perché di questo titolo? Timone ancestrale. Ti richiama proprio magari una... un vascello più o meno perso nella nebbia. Ovviamente il potere, i pezzi strumentali, sta tutto appunto, la forza sta appunto nel potere evocativo. Per cui io ascolto e dico quello che mi viene in mente. C'è la recensione sempre di Inverted Audio, stavolta di Esire Xerox, dice appunto che ogni traccia nomina Crimson Curve, Ancestral Helm, Dissolving World, sembrano quasi come delle scene separate in un film di David Lynch, dove ognuno offre una prospettiva diversa di un intero enigmatico e inscrutabile di Mulholland Drive. È un altro degli artisti che abbiamo voluto inserire, è Object. Al secolo TJ Hertz, nato a Tokyo da un genitore britannico-statunitense e un genitore filippino, cresciuto in Belgio e poi nel Regno Unito dal 2009, dove vive a Berlino. Noi l'abbiamo visto, credo, a Milano per Elita. Pubblicato un secondo album anche lui quest'anno, votazioni altissime, la media di Metacritic è dell'8.8 come Raval Consoles, Pitchfork stesso gli ha dato 8. L'album si chiama Cocoon Crush. Cocoon è il bozzolo che... non so se era un altro articolo che ho letto, invece DJ Richard dice che il disco di Esire Xerox è come se fosse un cocoon, un bozzolo, però circondato di filo spinato. Il pezzo che stiamo ascoltando è il pezzo di apertura di Cocoon Crush, si chiama Lost and Found, tra parentesi Lost Mix, perché invece il pezzo di chiusura è Lost and Found, tra parentesi Found Mix, a cui abbiamo aggiunto la seconda metà di Secret Snake, un pezzo che inizia in modo molto calmo ed ambient, che poi invece ha un'evoluzione molto interessante. E di questo disco ho letto, si fa riferimento al Hyperreal Sound, come quello di Dan Dexter e altri. Anche One Trick Pony Never, nelle pubblicazioni precedenti. Mi viene in mente anche, sì, mi sto soffocando, Amnesia Scanner e anche Holly Herndon. Ecco, infatti non me ne sono accorta neanche io che siamo passati da un po' a Secret Snake. Tutti artisti che, insomma, fanno parte delle etichette, diciamo, più prestigiose della scena. Object incide per la Pan, particolarmente sperimentale. Le ragazze Marie Davidson e Elena Auf per Ninja Tune. One Trick Pony Never per la Warp. Object. Siamo tornati a Desirex Aerox, che chissà come lo dice, chissà come lo pronuncia. Final Mercy. Misericordia finale. Dicevo della recensione di Inverted Audio, non ho avuto il tempo di riscrivere in italiano, quindi cerco di tradurre così. Dice che attinge da dark ambient, industrial e noise, adattandolo con una specie di ad un contesto da dance floor, però un po' perverso, un po' storto. E DJ Richard produce dei suoni che hanno un potente senso di inquietudine e un vibe piacevolmente macabro che emerge, che striscia fuori in mezzo ai hi-hats. Thank you. appunto, come dicevamo, che è, diciamo, un'espansione, una versione expanded del suono già esplorato in grind, o molto più in grande. Che indulge ancora di più in questa alternanza di territori ritmici. Allo stesso tempo raffinando questo mood così drammatico e questo tono minaccioso che definisce la sua musica. Dicevo prima, appunto, colonne sonore, riferimento a Lynch, e appunto si dice che la musica di Jay Richard ha una drammaticità cinematica. Cioè, infatti, la sua musica potrebbe benissimo fare la colonna sonora ad uno stylish neo noir. Essendo la sua musica così pregna di mistero ed emozione. Finisce questa misericordia finale. Avevamo detto prima che dopo Grind e prima di questo album c'è stato un altro EP. Anche in questo caso un titolo molto positivo, Path of Ruin, cioè il sentiero della rovina, la via della rovina, e infatti stiamo ascoltando il pezzo che dà titolo all'EP, anzi, in particolare si tratta del Pain Mix. Quindi sentiero della rovina, il mix dolore. Tre pezzi molto belli, e già appunto si sentiva un po' questa attrazione per la storia e l'arte antica, non sì, medievale, gargoyle, gotica, in quanto il secondo pezzo si chiama Gargoyle e il terzo si chiama Stygian Freeze, cioè il congelamento dello Stige, del fiume infernale. Delle tracce che ancora conservano una parvenza di ritmica familiare. Molto bello. E dopo Gargoyle ci immergiamo nel gelo dello Stige. Torniamo a uno degli ultimi pezzi, anche questo con titolo latino, Ex Aere, dall'aria. Miei appunti scarabocchi c'era scritto relativamente a Path of Ruin, a parte c'era scritto tra parentesi che titoletto. Quei tre pezzi c'era più aria, più ritmo, più melodia, ma sottofondo sempre un po' cupo. Invece questa Ex Aere sempre appunto questa linea di melodia, di synth sottofondo, linciana, badalamentiana, molto semplice, tre note, e poi c'è questo riff di, non saprei descrivere, c'è lo sfregamento di qualcosa su qualche superficie, tipo e finendo la recensione Inverte d'Odio dice: c'è sempre stato un cuore di tenebra al centro della musica di Jay Richard e questo ultimo disco non fa eccezione, e riesce a cogliere, riesce a esprimere un equilibrio perfetto tra l'espressivo e l'oppressivo, evocando un senso sottile di dread, di terrore e di suspense, senza cadere nel cliché dell'horror o del pastiche gotico. E dice: Desire Xerox è un disco anarchico, non per il brutalismo dei suoni, ma per la sua indifferenza al genere e il suo disinteresse per la coerenza. Mentre c'era un'altra recensione che diceva che comunque appunto in questa varietà e diversità c'è una coesività, si dice, e che quindi è un album più sciolto, più libero e meno legato alle convenzioni. Un disco caotico, pieno di idee selvagge, tenute insieme da una visione unica. E nelle nostre ricerche abbiamo trovato una bella cosa di accelerator.com, che ogni tanto chiedono a degli artisti che apprezzano di fare dei mix. Errata Corrige è nato e cresciuto a Portsmouth, non a Providence. Tanto è uno stato minuscolo, sarà a 10 km. E appunto si dice è ammirato da molti ma conosciuto da pochi. E che il suo vero nome rimane tuttora un mistero, ma almeno sappiamo che si chiama Alexander. E questo articolo è appunto una rubrica che è pubblicata un paio di mesi prima, tre mesi prima dell'uscita del disco, quindi non si fa nessun riferimento a Desire Xerox. Si chiama Influences, appunto si chiede a degli artisti. Ah, ecco, scopriamo anche che Young Male si chiama Queen Taylor. Si chiede agli artisti di fare dei mix appunto delle proprie influenze musicali. È molto interessante la scaletta di questo mix, sono 24 pezzi e lui dice: l'idea dietro questo mix era di concentrarsi su non club music, che è stata importante per me ad un certo punto della mia vita, e di lasciare le tracce non mixate, proprio come i programmi delle radio dei college, quindi la programmazione musicale, proprio una playlist non mixata. Dice: sono cresciuto ossessionato dalla radio, quindi magari sarà contento che abbia fatto trasmissione radio, e registravo un sacco di cassette di materiale, da quello che sentivo dalle stazioni locali del Rhode Island, e mi interessavano soprattutto programmi che suonavano grunge e musica alternativa ai primi anni 90, ma di tanto in tanto c'erano anche altre cose che catturavano la mia attenzione. Mi ricordo benissimo della prima volta che ho ascoltato Moments in Love degli Arts of Noise o i Psychedelic First. Dice: quindi per questo mix, questa selezione, ho voluto rappresentare un'ampia gamma di influenze musicali che condividono una certa accomunata, insomma, c'è cioè un qualcosa che le accomuna. Alcuni di questi pezzi hanno influenzato il mio senso della melodia e della composizione, mentre altre mi sono rimaste in testa per anni. Cioè, però ho lasciato fuori la sezione punk, metal e noise per appunto fare un ascolto un po' più tranquillo. E poi dice: questo mix è stato registrato in un giorno di pioggia a casa del mio ragazzo a Montreal. E la cosa molto interessante che appunto ha catturato la mia attenzione è che, oltre a pezzi di Yves Tumor, di Slowdive, c'è anche questo pezzo che stiamo ascoltando adesso, che è del 1977. Si chiama Il corpo di Linda. Se cercate su YouTube, tra l'altro è stato postato dal canale dei Bicep. È la colonna sonora del film del 77, La ragazza dal pigiama giallo, con Dalila Di Lazzaro. Ad opera di Rizzo Ortolani, uno dei più grandi compositori di colonne sonore della musica mondiale. È diventato famoso nel 62 con il tema More di Mondo Cane, appunto le classiche canzoni che uno conosce benissimo la melodia, ma infatti io sono andato a sentire e ho detto: sì, cavolo, certo che la conosco, ma non sai come si chiama. E poi anche legato al suo nome, anche alle musiche di storici sceneggiati della Rai, come La Cittadella, La Freccia Nera, e poi tantissimi film, sempre un po', anche film appunto un po' di quelli un po' osé. È grande, è molto apprezzato anche da Tarantino, che ha messo dei suoi pezzi in Kill Bill 1 e 2, Django Unchained, e quindi anche DJ Richard conosce ed apprezza questo pezzo, almeno di Rizzo Ortolani. E anche una cosa che mi ha incuriosito vedere nella playlist è vedere anche il nome di Karen Dalton. Karen Dalton noi l'abbiamo nominata nella trasmissione dedicata Adesso non ricordo se a Sharon Van Etten o dintorni, perché Karen Dalton era una cantante folk della scena del village degli anni 60, paragonata nella voce a... Oddio. Vabbè, era una cantante folk dalla esistenza abbastanza disgraziata, di origini native americane. E c'è stato un momento in cui delle cantanti, delle cantautrici americane hanno deciso di creare delle canzoni, delle musiche di pezzi che non esistevano. Cioè c'erano dei testi, non c'era la musica, e loro hanno deciso di creare la musica partendo dal materiale che era rimasto. Morta a 56 anni in condizioni di indigenza, come spesso capita. Ah, è stata spesso associata a Billie Holiday come la risposta folk a Billie Holiday, ma mi pare che appunto dicesse che invece la sua grande ispirazione fosse Bessie Smith. E invece adesso questo pezzo, che sta volgendo al termine, il più breve di Dies Irae Xerox, è il penultimo, e essendo così breve l'abbiamo messo insieme invece al pezzo conclusivo dell'album. Questo pezzo prima ambient si chiamava Old Winter's Way, e invece questo, che è il pezzo conclusivo, si chiama Gate of Roses. Roses. Anche questo pezzo, no? Sembrava tutto un po'... non dico allegro, no? Ma così, up tempo, e poi arrivano queste cinque note. Abbiamo parlato e ascoltato di DJ Richard, DJ producer statunitense, che questa sera, anche proprio in questo momento, è già all'Atelier C per iniziare il primo di due DJ set, il primo appunto improntato all'ambient, così il locale si riempie e fa così da apripista per invece la performance di Bod, e poi tornerà ancora lui fino alle 4. Quindi adesso noi aspettiamo che finisce il pezzo, raccattiamo le nostre cose e ci fiondiamo all'Atelier C. Sperando, come sempre, di aver fatto cosa gradita, ciao da Claudia, Mighty Mau.